America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero. Corte Suprema, nell'appello che era stato presentato per consentire a coloro che volevano venire negli Stati Uniti di poter avere il visto, soprattutto in paesi di origine islamica, ebbene l'appello è stato respinto. Una vittoria per Donald Trump, una decisione, come dire, che guarda indietro da parte della Corte Suprema. Un'altra decisione, secondo me, poco incoraggiante da parte del presidente Trump, dopo questa sua vittoria sulla riforma fiscale, apprezzatissima da molti, sicuramente una vittoria importante, il presidente ha deciso di eliminare 2 milioni di acri di terreno dallo status di parco nazionale, dallo status di terra protetta per decreto presidenziale. Attenzione, c'è una piccola differenza: i parchi nazionali sono decisi dal Congresso, ci sono delle altre zone protette che sono decise dai presidenti americani. Ebbene, dallo Utah ad altri stati importanti, il presidente ha deciso di togliere questo status. Una notizia positiva invece sul fronte del tetto per il debito americano: ci sarà quasi sicuramente un accordo fra democratici e repubblicani e quindi si potrà evitare la chiusura del governo americano. I better use some Tic Tacs just in case they start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab him by the pussy. Ecco, questa l'avete sentita ieri, però la differenza cos'è? Che c'è stato un commento a questa frase di Donald Trump, di Billy Bush, il quale ha smentito il presidente. Quando il presidente ha lanciato un tweet dicendo: quelle mie dichiarazioni del 2005 che sono state distribuite durante la campagna elettorale non erano mie, erano state manipolate, sono state inventate, sono state fatte con un meccanismo digitale. Ebbene, Billy Bush è intervenuto e ha detto: no, guardate, io c'ero. Quelle parole il presidente le ha dette: grab them by the pussy, prendetele dalla vagina per conquistare in modo sicuro una ragazza. E devo dire, Billy Bush ha fatto anche altre osservazioni dicendo: noi pensavamo che il presidente scherzasse, in realtà sappiamo oggi che la pensa davvero in quel modo. A un certo punto, pensate, ci disse: ma l'importante è smentire qualunque cosa e dire che non è vero e la gente ti crederà. Ebbene, lo sta facendo oggi, dice Billy Bush, e questo non fa bene al paese. Ecco, questo sul fronte politico. Ci sono anche altre storie, ma la più importante notizia di ieri è la fusione per 69 miliardi di dollari fra la CVS Health e la Aetna, che è la terza compagnia di assicurazione sanitaria americana. La CVS Health è un misto di catena di negozi e di servizi sanitari. Pensate, è una catena di 10.000 farmacie sparse in tutto il paese, un po' come un supermercato delle farmacie. È una formula che da noi è stata molto criticata, che però qui funziona molto bene. E devo dire, questa operazione è un'operazione rivoluzionaria per il settore farmaceutico, per il settore sanitario, per il settore assicurativo, perché mette insieme due colossi che potrebbero derivare economie di scala e migliorare la qualità del servizio per i loro assistiti. Ecco, questa operazione non ha soltanto una ragione economico e finanziaria, è anche un'operazione difensiva, perché c'è Amazon che ha deciso di diversificare proprio nel settore farmaceutico, e dunque i medicinali saranno consegnati direttamente a casa grazie alle strutture di Amazon. Dovrebbe aggiungere questo servizio nel giro forse di un anno o due, e dunque la CVS, grande catena al dettaglio, ha deciso di giocare in anticipo, perché è ovvio che se la gente comincerà a farsi recapitare i prodotti via internet, va meno in farmacia. Ecco, in tutto questo c'è una cosa che mi ha colpito in questa storia. Sentiamo. When I graduated from pharmacy school, my priority was to be the very best pharmacist I could be. And then as I got progressively further into management, you know, my focus was on, could I be the best district manager? Ecco, questa è la voce di Larry Merlo, che è l'amministratore delegato della CVS, che dice: quando mi sono laureato alla facoltà di farmacia, la mia priorità era quella di diventare il miglior farmacista possibile. Ecco, Merlo è di origine italo-americano, nato a Pittsburgh in Pennsylvania. Il chief executive officer di Aetna Entrambi sono classe 1956, si chiama Mark Bertolini, anche lui italo-americano, ha studiato alla Wayne State University a Detroit. Ecco, devo dire, da un certo orgoglio realizzare che ci sono due italo-americani che sono arrivati a guidare due colossi, un colosso assicurativo e un colosso per la distribuzione farmaceutica. E dunque sorge spontanea una domanda: e noi che facciamo? Beh, noi abbiamo ancora le nostre vecchie farmacie che vengono tramandate spesso di padre in figlia, da madre in figlio. Perché? Perché ci sono delle licenze, perché sono protette, e ci viene così venduto questo messaggio che è un servizio molto più curato, molto più sicuro, eccetera, eccetera. Non è vero, in queste migliaia di farmacie americane ci sono i farmacisti, i quali svolgono il loro lavoro, le medicine sono esattamente le stesse, per le prescrizioni ci sono coloro che le preparano addirittura in modo diretto, e dunque qui vediamo di nuovo un paese che si muove in avanti. Vi raccontavo ieri come con la riforma fiscale questo paese sta cercando di dare una sferzata all'economia, perché poi è di quello che stiamo parlando. Eppure noi siamo fermi, e si dice una questione culturale, gli americani sono diversi. No, ma questi sono italoamericani. Sono italiani alla radice, dunque sono le regole, il poter fare le cose in modo diverso che agevola un certo progresso. Non è questione di cultura, è questione di possibilità. Ecco, per dimostrare questa tesi, vi porterò il caso di un italiano italiano, Stefano Pessina, che lavorava anche lui nel settore farmaceutico, che ha cercato di creare una catena in Italia, non c'è riuscito, ha dovuto farla all'estero. È diventato amministratore delegato prima di Boots, una delle più grandi catene di distribuzione britanniche, dopodiché ha acquistato Walgreens, la concorrente diretta di CVS negli Stati Uniti. C'è stata la fusione tra Walgreens e Boots e questo colosso oggi ha 8.100 negozi. L'operazione è stata compiuta nel 2014. Pessina ha 76 anni e quello che non era riuscito, che non poteva fare in Italia, perché in Italia poi ha smesso di operare, ha dovuto farlo all'estero. E devo dire, in qualche modo è rassicurante vedere che questi italiani all'estero, italiani italiani o italoamericani, sono in grado di stabilire dei primati globali sul fronte dell'economia. Chissà, pensate cosa potremmo fare noi se avessimo meno regole, un po' più di flessibilità, meno rigidità, la possibilità di fare. Saremmo sicuramente primi al mondo, visto che i nostri cugini già ci sono riusciti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su mariomerivato.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di assicurazione, di farmacie e dunque di Johnny Winter, Medicine Man. If the kind of love you need is something that your man can't understand, next time he goes out with the boy, just call your medicine man. Hot or cold or in between, do I have the door diagram? Some boys got it, some boys don't. I'm your medicine man. Hey, naughty mama, don't you suffer alone. Call me just as quick as you can. I'll be over with the antidote, honey. I'm your medicine man. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!